è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. E siamo qui alle 18.35, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. SMS 349-238-6666, la zanzara at radio24.it, TG2. Accordo nel PDL sulle intercettazioni, non potrà essere modificato alla Camera, annuncia Berlusconi, che poi attacca i giudici. La sovranità è passata dal popolo ai PM. Per il presidente Napolitano occorre riequilibrare i bilanci, ma senza danneggiare la ripresa economica. È importante che l'Europa sia unita nell'affrontare la crisi. Confessa l'infermiera che ha rapito il bimbo di Nocera. Aveva preso Luca per far credere all'amante, un uomo sposato di Napoli, che fosse il loro figlio. La madre la perdono. Saranno albergatori e commercianti di Jesolo a pagare i 1000 euro di multa della turista sorpresa a comprare una borsa falsa sulla spiaggia. Allora, ci sono grandi novità su un tema molto importante, quello dei rapporti tra Partito Democratico e massoneria. Sul sito del Grande Oriente d'Italia qualche tempo fa c'era scritto: non ci fate arrabbiare perché altrimenti cominciamo a pubblicare gli elenchi dei fratelli del Partito Democratico. E andiamo a sentire Studio Aperto. Ha passato la giornata tra le braccia della mamma. Il piccolo Luca, rapito da una squilibrata all'ospedale di Nocera, è ritrovato dopo ore di angoscia. La perdono, dice la donna, è come se il mio bimbo fosse nato due volte. Lei, Anna Rita Bonocore, è ora in carcere. Mi manca il figlio maschio, se lo trovo bello fatto me lo prendo, aveva detto alla madre di Luca prima di portarlo via. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai. Esternazioni di Berlusconi quotidiane. Oggi all'assemblea di Federalberghi. La prima cosa è questa, ma l'aveva già detta: non ho nessun potere. Il Presidente del Consiglio non ha nessun potere. Avevo un potere che era quello di stabilire l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri. L'ho delegato il primo giorno al dottor Gianni Letta, mio sottosegretario, non ho nemmeno quello. L'architettura istituzionale italiana realizzata dai padri costituenti dopo 20 anni di dittatura è questa, di dare tutto il potere frammentizzato tra il capo dello Stato, il Parlamento. Non rimpiangerle. La sovranità è della magistratura. La sovranità nel nostro paese dovrebbe essere del popolo, che la conferisce al Parlamento. Oggi la sovranità non è più del Parlamento. La sovranità è passata a questa corrente della magistratura, i suoi PM, che attraverso la Corte Costituzionale abroga le leggi che non piacciono a loro perché diminuiscono il loro potere. E poi sulla protezione civile in Abruzzo. Tra le altre cose, ho pregato in questi giorni la protezione civile di non mandare più nessuno all'Aquila in Abruzzo, magari con la scritta protezione civile, perché dopo che la magistratura abruzzese ha indagato per omicidio colposo i membri della protezione civile che non hanno saputo avvisare i cittadini del terremoto, se uno ha avuto qualcuno che è morto sotto le macerie ed ha una mente fragile, magari gli viene in mente di sparargli un colpo in testa, no? Pericolo aggressioni, dice Berlusconi, addirittura a qualcuno che potrebbe sparare un colpo in testa a quelli della protezione civile dopo le indagini iniziate dai magistrati. E infine un grande annuncio, un annuncio epocale, cioè nel nuovo spot, state a sentire bene, il nuovo spot sul turismo, lo spot sul turismo ideato con notti e notti insonni passate insieme al ministro Brambilla, ci sarà la voce di Berlusconi stesso. Essere testimone di uno spot per il turismo. Immagina che cosa dirà l'opposizione se io dovessi andare a fare una cosa del genere. Ma siccome il sottoscritto è abituato a fare le cose che gli sembrano giuste e a non tenere conto di un'opposizione che non ti porta mai... Infatti è quello che stiamo facendo, stanno perdendo in effetti anche. Lasciali perdere, diceva una voce tra il pubblico di Federalberghi. Nello spot del turismo ci sarà la mia voce, che Berlusconi definisce sensuale. Allora, lo spot è già fatto, c'è già. Avevo fatto il testimonial con la mia faccia, non più giovanissima ma abbastanza simpatica. L'abbiamo visto ieri con il ministro Brambilla, le ho ordinato di togliere la faccia ma di lasciare la voce, che peraltro è inconfondibile e, se permettete, abbastanza sensuale. Ti sorprenderà. E allora uno degli interrogativi di questa sera è: la voce di Berlusconi è sensuale, sì o no? Non rimpiangerle. Intanto, primo ospite della serata su queste note. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti. È il sindaco di Verona, Flavio Tosi. Sindaco, proprio lei cosa mi combina? 190 all'ora, ma era lei a 190 all'ora con la scorta o no? No, era la scorta. Era solo la scorta? No, ero io con la scorta, ma guidava ovviamente la scorta, mica il sindaco. No, vabbè, certo, questo sì, però c'era lei nella macchina. Certo, e la scorta va, come tutte le scorte, in autostrada a una velocità sostenuta, perché lo prevede la prassi, quindi è stata fatta una tempesta in un bicchiere d'acqua. L'unica differenza dalle scorte normali è che di solito le altre targhe, siccome sono targhe di Stato, che sono segnalate, quindi le multe non arrivano. Invece, siccome è sottoscritto, anziché usare auto blu, auto di Stato che usa un'auto di un concessionario incomodato gratuito, e allora le multe arrivano, ma poi vengono tolte perché, appunto, avendo sottoscritto la scorta, scorta che non ho chiesto ma mi è stata attribuita dagli organi dello Stato, la scorta si comporta di conseguenza quando è in autostrada. Però le faccio qualche appunto, sindaco. Il primo appunto è questo: c'è bisogno di andare a 190 in autostrada? Prima cosa. Intanto non deve chiederlo a me, deve chiederlo alla scorta. Vabbè, ho capito, ma è lei che mica è passivo, lei è dietro, guardi, non è che dice andate. Guardi, lei dovrebbe informarsi prima di parlare e fare domande, dovrebbe informarsi. Non è il sindaco né nessuno delle persone scortate che decide la velocità della scorta. No, ma io non ho detto che lei decide, Ho detto semplicemente che se uno va a 190 o 200, anche lei che è dietro potrà dire qualcosa o no? No. No. Perché è la scorta che stabilisce qual è l'andatura corretta. E se informarsi, perché l'importante è appunto informarsi, visto che informate, le scorte vengono istruite in autostrada a tenere una velocità più sostenuta del limite, perché siccome la persona sottoposta a scorta è immaginabile che possa essere esposta a dei rischi, si vuole evitare che la macchina venga seguita. Per sapere se una macchina è seguita non puoi andare ai 130 come tutti, perché là dietro hai la coda e quindi potrete essere seguito, e quindi alle scorte viene impartita normalmente, correntemente, l'istruzione di superare i limiti di velocità dell'autostrada per questo motivo. Punto. No, ho capito, io questo lo capisco benissimo, però sindaco, adesso non giriamo intorno alle cose, il fatto che lei sia dietro passivo anche se si va a 200 all'ora, questo insomma fa un po' sorridere, perché uno, insomma, la scorta, lei è il sindaco, può decidere, guardi, insomma, può diminuire la velocità, forse stiamo andando troppo forte. Poi tutti i manuali della guida, tutti i manuali della polizia stradale, tutto quello che è uscito negli ultimi anni, insomma, fa sì che la velocità di 190 sia una velocità anche pericolosa, o no? Ripeto, questo sta alla scorta, non deve chiederlo a me, se vuole le può chiamare qualche questore, qualche responsabile dei servizi di sicurezza, gli chiede se sono velocità eccessive, non lo chiede a me, non è compito mio. Non è compito. Se monto in macchina mi faccio trasportare, punto. Senta, ma la multa poi perché non si paga? È giusto secondo lei che non si paghi? Ma non è giusto che non si paghi, perché siccome la scorta viaggia a velocità superiore, perché così prevede la norma di comportamento delle scorte, e quindi ci mancherebbe altro che arrivi la multa. La multa, le ripeto, e si vede che non ha ascoltato quello che l'ho detto all'inizio. No, ma ho ascoltato benissimo. A noi arriva, no, si vede di no. La multa, no, arriva, ma ho ascoltato, perché anziché usare auto blu di servizio dello Stato, il sottoscritto usa un'auto concessa in comodato gratuito da un concessionario, quindi un'auto privata che non costa nulla alle casse dello Stato. E va bene, questo qua ci crediamo, non c'è problema. Quindi su la questo. Multa arriva per quello, perché la targa non è fra quelle segnalate, in quanto non si tratta di un'auto blu. Non si tratta di un'auto blu. Ah, è questo. Mentre invece c'è una lista di targhe, sì, che sono quelle usate comunemente per le scorte, sì, che sono segnalate e quindi vengono automaticamente depennate e non arrivano mai le multe. Ah. Ma anche per le auto blu, diciamo, regolari, non quelle delle scorte, sono... no, c'è l'esenzione? Solo quelle delle scorte, perché chi ha l'auto blu non è che abbia il titolo, chi conduce il veicolo a decedere il limite di velocità. eccede limiti di velocità chi ha la scorta e quindi chi è sottoposto a una misura di particolare sicurezza e quindi, ripeto, siccome in autostrada non si può essere seguiti, per non essere seguiti l'unico modo è andare oltre il limite di velocità. Però sindaco, lei è una persona sempre senza peli sulla lingua, che si confronta con tutto, che non ha problemi a parlare di queste cose, però mi fa specie che lei dica io sono dietro, se quello va a 200, 220, 240, che è considerato una velocità molto pericolosa, a me non importa, decide la scorta. Mi sembra una posizione un po' strana, conoscendola anche, conoscendo il suo modo di parlare, il suo modo di rapportarsi, insomma, voglio dire, se la macchina va a 240, per lei sarà un problema o no? A parte che la macchina andava a 190 o 180, quello che è, non a 240, quindi se lei vuole dire che andava a 350... No, ma ho detto in generale, non ho parlato di quella ma macchina. Ma stiamo dicendo in generale, c'è un caso, la macchina andava a 190... Beh, a 190 non è considerata una velocità proprio da... Le scorte normalmente vanno a quella velocità, punto. E per lei non è un problema? No, perché io mi fido della persona che guida. Ognuno fa il suo mestiere, la persona che guida guida una macchina con la competenza che ha, io faccio il sindaco. Vuoi parlarci dei tuoi problemi? Benissimo, sindaco, siamo in collegamento con Flavio Tosi, sindaco di Verona. La media tra l'altro è a 190, dunque in alcuni punti sicuramente sarà stata anche superiore alla velocità, ma lasciamo perdere questa cosa. Lei è davvero convinto che esistano motivi di sicurezza per andare a queste velocità? Esistono? Lei dice io mi fido della scorta, se vanno a 190 significa che ci sono motivi di sicurezza. La prassi insomma ci suggerisce che non è così, insomma si va a quella velocità in default a prescindere dai problemi di sicurezza o no? Ma questo lo deve, ripeto, lo deve chiedere a chi guida, mica a me. Io faccio il sindaco, mi trasportano, la scorta ha la sua responsabilità e sa che è la velocità andare. Senta sindaco, un'altra cosa, su un altro argomento, perché mi incuriosisce la sua posizione. Si può dire qualcosa su questa vicenda di Calderoli che se ne è uscito sui premi ai calciatori? Non le sembra una di quelle classiche sparate così per stare sui giornali? O una cosa seria? Se a livello nazionale si stabilisce una limitazione, è chiaro che si entra nel libero mercato e diventa un precedente un po' unico, però è anche vero che nel momento in cui a tutti si chiede di tirare la cinghia, quantomeno mettere dei tetti limite anche su quelle prestazioni forse non sarebbe sbagliato in un momento come questo, solo per questo momento, non perché sia normale farlo. Ma i tetti a chi, lei dice? Tetti a chi? Agli stipendi dei calciatori? Cioè le società dovrebbero autonomamente decidere di mettere dei tetti? Alle categorie e che ne so, alle capacità economiche delle squadre, dare dei massimi anche lì rispetto a quello che può essere percepito, potrebbe farlo anche l'Europa stessa, visto che siamo tutti un po' adesso nelle stesse acque purtroppo. Senta, ma lei farà il tifo per l'Italia? Beh certo, sempre tifo d'Italia. Sempre? La Padania non l'entusiasma come nazionale che ha vinto i mondiali dei popoli non riconosciuti? No, ma guardo anche quella per carità, però ho sempre tifato la nazionale italiana, l'ho sempre tifata e non è che smetto di tifarla adesso. È un bel sentire, grazie, buonasera. Grazie a lei, arrivederci. 18:50, Enrico da Prato, 800 24 00 24. Salve dottor Cruciani, buonasera. Buonasera, dica. Volevo fare un duplice intervento che può sembrare scollegato, però cioè un duplice argomento. Innanzitutto ho chiamato appena ho sentito le esternazioni del Presidente del Consiglio, avevo sentito oggi durante i radiogiornali, però ecco, proprio mi ha colpito il fatto che dopo 20 anni di dittatura i nostri padri costituenti hanno pensato bene di frammentizzare, mi sembra abbia utilizzato questo termine, il potere. Dal punto di vista, Enrico, dal punto di vista così generale, il fatto che Berlusconi dica con non so quanti parlamentari di maggioranza che non ha poteri è abbastanza ridicolo, ma da un punto di vista generale è così, però, cioè sì, da un punto di vista storico, diciamo, dopo 20 anni, dopo 20 anni, cioè mi sembra un'offesa a padri costituenti, ma è addirittura un'offesa a padri costituenti, ma insomma, non è che non si possa cambiare la Costituzione, modificarla seguendo gli iter procedurali previsti appunto dalla Costituzione stessa, sono d'accordo, però dire siccome c'è stato il fascismo, dopo 20 anni i nostri padri costituenti hanno cercato di far sì che ogni potere esecutivo, legislativo, giudiziario avessero un campo d'applicazione e fossero praticamente l'uno controllasse l'altro per non avere mi sembra che sia stata un'opera dei padri costituenti eccellente. Sì, ma Berlusconi non voleva mettere, scusi un attimo, Berlusconi voleva ammettere che Berlusconi non dovrebbe parlare di queste cose davanti alla Federalberghi, questa è la prima cosa. Cioè, secondo, dovrebbe parlare, ne potrei parlare io, neanche lei in radio, io al bar con gli amici. No, vabbè, al bar con gli amici, giusto? No, perché non credo che sulla Costituzione si parli al bar. Però, Enrico, il punto è un altro. È vero che la Costituzione che abbiamo ereditato dal fascismo ha messo una serie di paletti all'azione del governo, procedure complicate, bicameralismo, tutto quello che vuole, ma è una discussione che va avanti da 50 anni e non solo Berlusconi non si risolve con queste esternazioni. No, prima questo. E secondo Berlusconi, che dice di non avere potere con una maggioranza così ampia, ripeto, appunto, suona un po' strano. L'altra cosa è risibile, no? Sì. L'altra cosa, dicevo, sembra scollegata, sono gli interventi degli esponenti leghisti. Aveva prima al telefono il sindaco Tosi, sì. Tosi stamattina. Ecco, ma l'ha convinta la sua spiegazione? Scusi un attimo, Enrico, no, la sua spiegazione sulla multa, cioè sulla multa, sulla velocità? Assolutamente no. Io sono un elettore di centrodestra veramente imbarazzato. L'ultima volta non ho votato. Ma adesso è imbarazzato per Tosi? Imbarazzato perché il governo si sta appoggiando sempre di più alla Lega, quindi prendiamo le spiegazioni di Salvini ridicole. Sì, però Enrico, io voglio capire se la giustificazione sull'eccesso di velocità l'hanno convinto o no? Assolutamente no, assolutamente. Non mi faccia discorso sulla Lega in generale. No, glielo porto avanti, cioè le spiegazioni sulla velocità assolutamente no, cioè non stanno né in cielo né in terra, è come quando uno si arrabbia sugli specchi e comincia a scivolare. Va bene, no? Grazie, Daniele da Parma. Daniele, no, non c'è tempo, Enrico, non c'è tempo, non c'è tempo. Che vuole dire su Salvini? Che vuole dire? Come si fa? A fare cosa? È morto. Daniele da Parma. Sì, salve Cruciani. Dica. Buonasera. Senta, Tosi mi ha fatto imbelvire, come disse il suo... Senta, ma lei sta guidando? Lei sta guidando? Io sto guidando, faccio i limiti e ho gli auricolari. Dunque, tutto in regola. Non ho la scorta, non ho l'autista. Vabbè, questo sarebbe strano. Allora, Tosi ha detto delle baggianate, mi permetta. Perché? Allora, perché il codice della strada non prevede quello che dice lui. Però ha parlato di altre cose, Tosi, non ha parlato di codice della strada, ha parlato di regolamenti, non so che cosa, che prevedono che le scorte possano superare i limiti di velocità. Ma queste saranno consuetudine, noi le vediamo, io sono sempre in autostrada e vedo spesso le scorte che fanno i limiti di velocità, anzi non fanno i limiti di velocità, ma queste sono consuetudini, ma la consuetudine non è detto che sia giustificata. Il codice della strada è un codice che va applicato... Che si applica per tutti. Si applica per tutti, per le ambulanze, per la polizia, per i privati cittadini. Per le ambulanze non credo. Certo. Io ho capito, ma se un'ambulanza supera i limiti di velocità non credo che prenda la multa, Daniele. Attenzione, io ho detto che il codice della strada prevede il comportamento anche delle ambulanze, sì, cioè dice quando non distingue, possono, non distingue. Possono fare interventi di emergenza, ad esempio il lampeggiante e la sirena serve proprio a definire se c'è un intervento meno. Scusi, io però vorrei capire, Daniele, secondo lei è sbagliato che le scorte possano superare i limiti di velocità, possono andare a 190? Ma è pericolosissimo. Ma lei li ha mai visti? Daniele, l'ho visto. Secondo me non c'è nessun motivo di sicurezza per andare a 190, a meno che non ci sia un attentato terroristico o qualcuno che insegue dei banditi. Non mi pareva fosse il caso. Assolutamente. Tosi ha dato una spiegazione, secondo me, piuttosto ridicola. Doveva dire, scusate, io e la mia scorta abbiamo sbagliato, paghiamo la multa, punto. Succede a tutti di sbagliare, prima o poi arriverà una multa anche a me. Invece definire questa situazione che la scorta ragiona con la sua testa a prescindere dalla sicurezza sua, come ha detto lei d'altra parte, cioè sono scuse puerili, insomma. Ma non è questione di scuse, secondo me non è il punto, non sono le scuse, è che mi fa ridere il fatto che Tosi dica io sono dietro. Quello può andare a 190, 200, 220. Io mi faccio portare, mi faccio trasportare dalla scorta. La scorta decide a quale velocità andare. Insomma, non è che è un automa lì. E siamo di nuovo in diretta con la Zanzara alle 19.18, 800 24 00 24 TG3. Berlusconi, il potere dei PM, gravi le accuse alla protezione civile, non andrà più all'Aquila, il CSM tutelare i magistrati accusati dal Premier. Accordo nella maggioranza sulle intercettazioni, sarà blindato al Senato e alla Camera, ok di fini, le opposizioni non lo voteremo. Bufera per una frase del Premier poi smentita, Rai faziosa, non firmerei il contratto di servizio, reintegrato Ruffini a Rai 3, Zavoli convoca Masi. Napolitano incontra il Presidente dell'Unione, risanare i conti senza danneggiare la ripresa, difficoltà frutto anche della speculazione. Tremonti e la manovra. Saldi e soldi devono restare invariati. Avanti col federalismo. Bersani, manifestazione del PD il 19 giugno. Volevo il figlio maschio che non ho mai avuto. Parla l'infermiera che ha rapito il neonato a Nocera, la madre del piccolo. La perdono. La guerra contro i talebani che dura ormai da 104 mesi, più lunga del conflitto del Vietnam, oltre 1000 soldati americani uccisi. Allora, tutti siamo contro la pedofilia, questo mi pare evidente, ma sentite quello che dice un prete, Don Maurizio Dassier, parroco di Miane, provincia di Treviso. I pedofili andrebbero fucilati. So bene cosa voglia dire per un bambino subire violenza, ho avuto a che fare con 3 casi devastanti. Fucilare tutti i preti pedofili. Sky TG24. Intercettazioni. Berlusconi blinda il testo, sanzioni più pesanti per gli editori. Dura reazione del sindacato dei giornalisti, siamo pronti alla resistenza civile. Crisi, la ricetta di Napolitano, risanare i conti senza danneggiare la ripresa. Tremonti avverte in Parlamento, la manovra deve restare come ora. Ma l'opposizione promette battaglia, manifestazione del PD il 19 giugno. Fiat ha rinviata la trattativa su Pomigliano, la Marcegaglia attacca la FIOM. Carissima RC Auto, in Italia costa il doppio rispetto a Francia, Germania e Spagna. Voleva un figlio maschio, la donna che ha rapito il neonato a Nocera, la madre la perdona. Nucleare, Ahmadinejad non si piega, stop ai negoziati se l'ONU vara sanzioni. Mondiali, eccoci, alle 23 la nazionale italiana parte per il Sudafrica. La stagione dell'amore. Beh, uno degli interrogativi del giorno, ripeto, uno degli interrogativi del giorno è certamente questo. Ce lo suggerisce lo stesso Presidente del Consiglio. Berlusconi ha o no una voce sensuale? Allora, lo spot è già fatto, c'è già. Avevo fatto il testimonial con la mia faccia, non più giovanissima ma abbastanza simpatica. L'abbiamo visto ieri con il ministro Brambilla, le ho ordinato di togliere la faccia ma di lasciare la voce, che peraltro è inconfondibile e, se permettete, abbastanza sensuale. La vivrai, ti sorprenderà. Di cosa parla Berlusconi? Parla dello spot realizzato, pare, con Perdendo delle nottate, insieme al ministro Brambilla, lo spot sul turismo in Italia, in cui ci sarà non la faccia, bensì la voce di Berlusconi. Ma fanno discutere le frasi pronunciate pochi minuti fa alla Zanzara dal sindaco di Verona, Flavio Tosi. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento. La sua scorta ha percorso una media di 190 un tratto di autostrada, la Serenissima, e lui la spiega in questo modo. Ero io con la scorta, ma guidava ovviamente la scorta, mica il sindaco. E la scorta va, come tutte le scorte, in autostrada a una velocità sostenuta, perché lo prevede la prassi, quindi è stata fatta una tempesta in un bicchiere d'acqua. L'unica differenza dalle scorte normali è che di solito le altre targhe, siccome sono targhe di Stato e sono segnalate, quindi le multe non arrivano. Invece, siccome è sottoscritto, anziché usare auto blu, auto di Stato che usa un'auto di un concessionario incomodato gratuito, e allora le multe arrivano, ma poi vengono tolte perché, appunto, avendo sottoscritto la scorta che non ho chiesto ma mi è stata attribuita dagli organi dello Stato, la scorta si comporta di conseguenza quando è in autostrada. Non è il sindaco né nessuno delle persone scortate che decide la velocità della scorta, è la scorta che stabilisce qual è l'andatura corretta. Le scorte vengono istruite in autostrada a tenere una velocità più sostenuta del limite, si vuole evitare che la macchina venga seguita. Per sapere se una macchina è seguita non puoi andare ai 130 come tutti, perché là dietro hai la coda e quindi potrete essere seguito. Che si fanno in quattro per te? Le scorte normalmente vanno a quella velocità, punto. E per lei non è un problema? No, perché io mi fido della persona che guida. Ognuno fa il suo mestiere, la persona che guida una macchina con la competenza che ha, io faccio il sindaco. Ma c'è bisogno di andare a 190 per una scorta? Di media, perché in alcuni punti evidentemente la velocità sarà stata anche più alta. Resta la domanda. Secondo me no. Però Qualcuno scrive: Tosi come tutti gli altri politici. E poi un sacco di persone che lavorano nella polizia che ci raccontano: non è vero, non esiste questa esenzione per le scorte, eccetera eccetera. Ma si parla ancora di Rai e di Santoro. Viva la Rai, che fa crescere strani. Viva la Rai. Marco Pannella, ieri sera, Iceberg. Io sono convinto che Santoro meriti di essere condannato per attentato ai diritti civili e politici del cittadino e per violazione flagrante dei doveri di pluralismo e imparzialità. È un truffatore politico. Truffatore politico, adesso per carità, si possono fare e dire tante cose su Santoro, ma insomma, questo perché magari non ha invitato qualche radicale come voleva Pannella? Sul TG1, Pannella. TG1 è una voce della partitocrazia, in particolare oggi di quella parte che è maggioranza. Adesso sentite, qualcuno vorrebbe scendere in piazza per anno zero, mi pare un po' troppo. Borghesi, Italia dei Valori. Sbagliato. Se non c'è più anno zero, è giusto, noi andremo, è sbagliato. In piazza, noi andremo in piazza a protestare. Voi non perché ribadisco che difendere anno zero finalmente è difendere la RAI. Difendere anno zero è difendere la libertà, RAI come azienda, la libertà, è difendere la libertà, il pluralismo dentro nella RAI, perché altrimenti tra un po' non solo non ci sarà Santoro, tra un po' diventerà una specie di mini cool pop di questo governo, questo diventerà la RAI. Che ha detto Borghesi in piazza anche per anno zero, mini cool cop. Borghesi, Italia dei Valori. I tagli alla cultura, i mitici tagli alla cultura. Renato Zero, proprio lui, sentitelo. Ma forse questi signori che legiferano hanno paura della cultura. Chi è che ha paura della cultura? Chi la teme? Perché tenere la gente al buio dell'ignoranza fa comodo, fa molto comodo. Vogliono la gente ignorante, Renato Zero alla manifestazione di Piazza Navona. Celestini, il solito Ascanio Celestini, vogliono privatizzare la cultura, allarme sociale. Noi ci troviamo ad essere stati completamente scavalcati da una situazione politica che distrugge per distruggere, basta, insomma, distrugge per paura, per ignoranza, distruggere tutto ciò che è pubblico per regalarlo completamente a quel che è privato, ma non esiste una produzione culturale privata, nel senso che nel momento in cui diventa merce la produzione culturale non è più cultura, nel senso che non è più quella benzina, quella connettività, insomma, quella possibilità di produrre relazioni all'interno della società. Ti sentitelo ancora? È imbarazzante scendere in piazza e difendere delle istituzioni, cioè difendere la Costituzione, difendere lo Stato, difendere gli enti, no? Quando per noi, diciamo, sarebbe molto più naturale e anche eticamente più compatibile attaccarli, gli enti, le istituzioni, le costituzioni, gli stati, le nazioni, i governi. Ieri l'abbiamo tralasciata, ma sarebbe il caso di citare qualche passaggio dell'incredibile, anzi assurda, surreale lettera che Adriano Celentano ha scritto a Repubblica ieri. Ci sono una serie di cose assolutamente incomprensibili, non posso nemmeno immaginare come possano essere state concepite. La terra ci avverte che non è più possibile dipendere dal petrolio e per farcelo capire ci sta vomitando addosso 19.000 barili di peste al giorno, oscurando il mare degli americani e rischiando quindi di avvelenare l'intera catena alimentare. E vabbè, fin qui ci possiamo anche stare. Un avvertimento quindi dalle dimensioni catastrofiche che tuttavia sembra non impressionare minimamente il governo italiano. È di pochi giorni infatti la notizia che riguarda un via libera da parte del nostro folle governo a trivellare il bel mar della Sicilia. Evidentemente i rosicchiatori della maggioranza hanno pensato che tutta quella purezza nelle acque cristalline dei siciliani è sprecata. Perché non imbrattarla con un po' di petrolio e di catrame? Il guadagno che se ne ricaverebbe sarebbe abbastanza per seppellire l'intera isola e a breve scadenza la Liguria e il Veneto. Sentite poi che collegamento, senza contare poi la riapertura delle centrali nucleari contemporaneamente alla chiusura della libertà di stampa, a onor del vero non ancora a regime, ma il governo ci sta lavorando con tenacia e perseveranza. E poi la sua proposta Dobbiamo decidere solo il giorno, non ha importanza se di mercoledì, giovedì o lunedì. Importante che nessuno guardi la televisione nel giorno in cui Santoro è stato cancellato. Fabio da Roma, buonasera. Sì, buonasera, salve. Volevo soltanto dire che il 9 novembre del 2008 il bravissimo Tosi, il sindaco, metteva in divieto di sosta la macchina tra via Parri e via Monte Napoleone a Milano, prendeva la multa all'armati vigili perché la macchina messa probabilmente abbastanza male, e si beccava la multa, il tempo di viaggiare verso Roma, così riporta l'articolo del Corriere della Sera, la multa veniva cancellata. Basta, soltanto questo. Beh, mi scusi, lei sta dicendo che Tosi si è fatto cancellare una multa presa a Roma? Sì, a Milano. A Milano via Monte Napoleone, mi scusi. Sì. Questo è un articolo del Corriere della Sera del 9 novembre 2008, probabilmente se va su Google non farà difficoltà. Sì, sì. E Tosi che cosa ha detto su questo? Non si è mai espresso su questa multa? No, si è fatto togliere la multa, quello che ha detto lui, non lo so, perlomeno sull'articolo non c'è scritto. Riporto fedelmente l'articolo del Corriere della Sera. Va bene, grazie. Orlando da Torino, buonasera. Buonasera. Un attimo solo, abbiamo un ospite, è arrivato? È arrivato, sì o no? Ditemelo. Lasci perdere sto Teresi, chi è sto? Sto Teresi che ogni tanto lei... Ma se ride sempre! Non è Teresi, Telese. Ma io non lo conosco, non mi interessa, ma è un burlone, parla, ride, fa le battutine, ma chi è? Telese, eccoti qui! Quindi mi fate anche la sigla denigratoria con l'unico ascoltatore che ha chiamato contro di me, ma ditelo allora io vado a Radio Popolare. Ma sei matto? Mai più succede una cosa del genere, un'intervista io a Radio Popolare. Io voglio fare un'invettiva oggi. Su chi? Non ne posso più, della Gelmini. Ma che ti ha fatto adesso la Gelmini? Cosa ti ha fatto la Gelmini? Cosa ti ha fatto? Voglio che chiamino degli ascoltatori di destra, non facciamoli neanche parlare quelli di sinistra oggi, e che dicano la Gelmini ci ha bidonato. Perché? Su perché cosa? Me su la cosa? Gente per bene di destra si deve arrabbiare queste truffe su misura. Quali sarebbero queste truffe? Quali sarebbero? Ma finiscila con queste cose. Ma ogni volta questa cosa dello smantellamento della scuola pubblica, questa favola va avanti da anni. Ma è da vent'anni che sento stanno smantellando la scuola pubblica e poi non succede mai. Pezzo sono arrivati all'obiettivo, permetti, da figlio ai professori e da vostre. Cioè, l'ultima truffa è questa del tempo pieno, lì c'è proprio uno studio, per cui io sono anche offeso perché ho intervistato Gelmini, è una truffatrice, perché lei dice le aumentano le classi del tempo pieno e che cosa fa? Taglia tutte quelle dei primi anni, così non ci sarà più il tempo pieno, e ne aumenta 3-4 negli anni terminali, per dare il numero ingannatorio. Allora questa è una cosa, non ce ne frega nulla di quelli di sinistra, devono protestare quelli di destra. Però scusami, adesso su questo io non ti posso controbattere, Luca, tu sei un furbacchione perché hai i dati alla mano, ti sei documentato, adesso non ti posso dire hai torto, abbi pazienza. Apri il giornale, noi sul fatto l'abbiamo scritto giorni fa, ma se ti va bene Repubblica, apri Repubblica. Vabbè, io voglio che Repubblica sulla Gelmini, che c'è in questo paese, protesti contro il Gelmini e contro il decreto salva, la legge salva criminali, quella sulle intercettazioni, che va ribattezzata così. E su quella sei d'accordo pure tu, quindi neanche discutiamo. No, io sono d'accordo. Anche lì c'è il trucco, no? Improvvisamente dice mettiamo l'arresto, mettiamo il carcere, poi lo tolgono e dico, avete visto che la legge è migliorata? Ma veramente questi sono la banda del buco. Vabbè. E come controbatterti? Come rispondere? Ma io sono convinto che sei d'accordo con me. Poi no, sulle intercettazioni secondo me. Allora, sulle intercettazioni l'ho detto più volte, bisogna intervenire solo sulla pubblicazione, non nel modo in cui lo sta facendo il governo e non sulla modalità sulle modalità che hanno i magistrati per intercettare. Cioè, non bisogna intervenire 75 giorni, i reati, là non bisogna fare nulla. Là non bisogna fare nulla. Ogni 24 ore bisogna chiedere la proroga. Pensa uno che sta intercettando un sequestro ogni 24 ore, scusate, posso continuare a intercettare, ma è una cosa veramente... Però sulla pubblicazione sei d'accordo che bisogna fare... Chiamiamolo salvacriminali. Ma no, ma lascia perdere, queste cose sono sciocchezze. Salvacriminali. Ma che salvacriminali? Tanto non passerà mai. Oggi su Berlusconi che ha sbroccato. No, ma la cosa più bella di Berlusconi di oggi è un'altra. La voce sensuale, tu non la sai questa, la voce sensuale, la domanda della serata è questa. Berlusconi ha una voce sensuale, sì o no? Sentiamo. Allora, lo spot è già fatto, c'è già. Avevo fatto il testimonial con la mia faccia, non più giovanissima ma abbastanza simpatica. L'abbiamo visto ieri con il ministro Brambilla, le ho ordinato di togliere la faccia ma di lasciare la voce, che peraltro è inconfondibile e, se permettete, abbastanza sensuale. Allora, la notizia è questa, caro Telese, è che ci sarà uno spot del turismo in Italia realizzato dalla Brambilla. Sono d'accordo, è sensuale la voce di Berlusconi, teniamola. È sensuale. Sì, è sensuale. Ma come la mettiamo con l'attacco all'Abruzzo? Perché Berlusconi che ha detto non mando più un uomo della Protezione Civile in Abruzzo. Vabbè, ma cioè, io credo che il ricatto interregionale o interistituzionale è una novità assoluta. No, è un ricatto alla magistratura di L'Aquila, che sta indagando su quella questione ridicola. Vabbè, della... quella è una provocazione, però. Quella è una provocazione. Ma come una provocazione? Ogni volta che c'è una cappellata è una provocazione. No, ma è anche una cappellata. È tutte e due. Se vuoi che dica che è una cappellata, ti dico che è una cappellata. Ma non è. Non è la questione fondamentale. Cioè dice no, non mandiamo più la protezione civile in Abruzzo, ma è sempre questa idea un po' proprietaria. Io non lo facevo così bollito, secondo me sta perdendo la brocca, non sei d'accordo? Ma no, adesso sta perdendo la brocca, perde un po' di colpi. Ma c'è un'altra notizia della serata che riguarda Tosi. Lucio da Verona, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Allora, il caro nostro sindaco, io so tutto sul sindaco, Allora, lui ha una macchina e un accomodato d'uso, l'autista è un dipendente della Lega, non è della scorta, lui però ha un agente di scorta, però l'autista è un dipendente della Lega. E il signore che diceva prima di via Monte Napoleone, lui era da solo senza scorta, con la paletta in divieto di sosta in via Monte Napoleone, con la paletta del Ministero degli Interni, che poi non hanno capito come mai che avesse questa paletta, e ha fatto intervenire, ha fatto delle telefonate, non si sa bene se a Maroni o a Moratti, per fargli intervenire che questo vigile non applicasse la multa. Vabbè, d'accordo, adesso lo verificheremo. Però Lucio, sulla questione della scorta a 190 all'ora, della multa tolta alla scorta di Tosi, il fatto che Tosi dice beh, insomma, la scorta decide a quale velocità andare, e io sono lì seduto, non intervengo, mi fido della scorta, lei che dice? No, intanto la scorta non guida la sua macchina, è un dipendente della Lega che guida. Vabbè, ma questo chi se ne frega, Lucio, che è dipendente della Lega? È un dipendente della Lega, io lo so benissimo. Va bene, pazienza, è un dipendente della Lega. Allora, una volta che è dipendente della Lega, che problema c'è? Se appunto non è la scorta che decide, lui è il dipendente della Lega che decide se è 190 o no, perché la scorta che ha lui... Ma lei dice la scorta, quello che guida non è un poliziotto? No, non è un poliziotto, è un dipendente della Lega. Okay. E poi mi dico una, sa cosa hanno fatto qui a Verona? Cosa hanno fatto? Ha fatto che gli assessori, ha fatto una delibera, che gli assessori possono circolare per andare in ufficio con l'auto privata nelle corsie preferenziali, cioè in divieto di accesso possono andare in divieto di accesso sulle corsie preferenziali. Ho capito. Ha fatto una delibera del genere. Allora, ha sentito quanto è arrogante? Vabbè, Lucio, adesso prima. L'ho sentito arrogante, insomma, diciamo che su questa questione mi sembrava un po' piccato. Grazie, Massimo da Torino, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera agli ascoltatori. Dica. Secondo me lei è un po' fuori strada, mi permetto in che di, senso, mi scusi? Nel senso, mi riferisco alla scorta. Io telefono per testimoniare un'esperienza che ho avuto una dozzina di anni fa. Io sono un comune mortale, che però per due giorni della sua vita è vissuto sotto scorta. Ero perito della Procura della Repubblica di Catanzaro. Sì. Insieme a un collega da Torino andammo giù, venivamo prelevati dalla Guardia di Finanza, che ci scortò in giro per la Calabria per andare a verificare dei macchinari venduti all'ASL, una truffa, insomma, una cosa un po' particolare. Allora? E la scorta si muove con tecniche ben precise, non casuali, che vanno contro il buonsenso delle comuni persone e mettono anche a disagio chi si trova all'interno dell'abitacolo. Per esempio, nei centri urbani rigorosamente non si rispetta il limite. Io mi ricordo, facevamo la statale tirrenica, insomma, sta statale con case a destra e a sinistra, e si sfrecciava i 100-120 all'ora. Però i Massimo, siamo in Calabria. Tutti rosso. Questo ho capito. Siamo in Calabria. Queste sono in una... le tecniche. Ho capito, così, Massimo. Così finisco solo. In autostrada la regola era mai nessuno davanti. Ecco, queste sono le tecniche che utilizzano e di cui io posso testimoniare. No, ma ho capito, dunque, secondo preparata. Ho capito, secondo lei dunque il fatto che la scorta vada a 200 km all'ora sull'autostrada è una cosa normale? Ha una sua logica, è una questione di prospettiva, mi rendo conto che nella vita normale uno non ci pensa neanche a queste cose, anzi ti danno anche magari fastidio, però se si entra nella prospettiva di chi deve tutelare la vita di un soggetto potenzialmente a rischio, questa è la tecnica che usano. È chiaro che se poi uno la scorta la usa per andare dal parrucchiere, il discorso cambia. Massimo, posso avere dei dubbi sul fatto che rispetto a una situazione calabrese la scorta che va a 200 all'ora sull'autostrada e che porta il sindaco di Verona non abbia proprio questa urgenza di andare a 200 all'ora? Posso avere dei dubbi o no? Anch'io, però credo che gli ordini alla scorta, ammesso che sia una scorta perché ho sentito la telefonata di prima, appunto. È chiaro, se non fossero forze dell'ordine il discorso cambia totalmente. Telese, voglio sentire Telese su Tosi a 190 con la multa tolta. Ma io credo che le scorte vadano veloci, è un motivo fisiologico, da un lato sono macchine pesanti, sono macchine di alta cilindrata, quindi dire hai la scorta ma vai a 90 all'ora è un po' ridicolo, cioè 190 è un'altra cosa rispetto ma non è a noi. Niente, di che macchine parliamo di macchine tipo un Davis, Audi, Audi, Audi un BMW, Audi appunto, sì. Cioè grandi cilindrate, macchine pesantissime perché hanno la blindatura e sono macchine che corrono, è quasi più faticoso portarle piano. Dunque polemiche sterili. Chi deve avere le scorte e chi no, perché spesso le scorte sono accompagnamento con autista. Non sono persone che rischiano la vita, tutela, sono lo status symbol dei VIP. Quindi posto che chi ha la scorta ha diritto anche ad andare veloce se i poliziotti della tutela lo ritengono giusto, controlliamo a chi diamo la scorta, perché se la diamo a Pizza e Fichi, se la diamo a Miller Bordon ha avuto la scorta. Ha avuto, spero che non l'abbia più. Ha avuto la scorta, sì. Vabbè, adesso perché te la prendi col povero Willer Bordone? Adesso te la prendi. Voglio dire proprio una bestemmia. Scajola in questo momento, secondo me, ha ancora la scorta. Dici? Vabbè, sì. Possiamo verificare. Scajola, chiama. Se hai la scorta, chiama, se la faccio tosta. Potrebbe averla anche per motivi di sicurezza dopo quello che è successo, magari lo vogliono linciare. La blindata per difendere i pomodori, allora non deve manco andare in macchina. Insomma. Aurelio da Milano, buonasera. Buonasera Cruciani, le faccio i miei complimenti per la trasmissione. Io volevo fare soltanto un breve intervento legato all'articolo che lei ha commentato su Di Celentano, sì. La lettera di Celentano. Più che altro è un appunto nei suoi confronti, ma la prenda dal punto di vista buono, no? Non cattivo. Certe volte io noto in lei una certa diciamo arroganza nel commentare determinati articoli o interventi da parte di esponenti della politica o dello spettacolo, perché sembrano quasi fuori dal comune o inverosimili. No, però mi scusi un attimo. La voglio parlare. Il mio intervento vuole essere costruttivo nei suoi confronti, non voglio puntarle il dito. Secondo me, proprio perché lei è un bravo giornalista, forse dovrebbe essere un pelino più diplomatico. No, ma io non sono diplomatico per natura, però lei, se le leggo questo passaggio, mi dica che ha capito qualcosa, perché io non ho capito nulla, niente, senza contare poi la riapertura delle centrali nucleari, contemporaneamente alla chiusura della libertà di stampa. A onor del vero non ancora a regime, ma il governo ci sta lavorando con tenacia e perseveranza. Tutti segni questi di squilibrio, scrive Celentano, che vanno di pari passo con l'incazzatura del pianeta. Lei ha capito qualcosa? Allora, Aurelio, mi dica che ha capito qualcosa, perché io non ho capito niente. No, il discorso che fa Celentano, secondo me, è più legato ad una tendenza politica che ha lui al suo interno. Cioè, no, ma mette tutto insieme. Non è questione di destra o sinistra. Lui, secondo me, ha fatto una cozzaglia di ragionamenti per cercare di, in quattro parole, di riassumerli e fare una protesta nei confronti anche di un governo che probabilmente lui non ho capito, però insomma non è che si può mettere insieme il pianeta, il pericolo di inquinamento, la libertà di stampa. Deve capire ad un certo punto capito, che c'è anche l'età da parte di una persona. Ecco, forse quello. Dall'altro lato un attimo solo, c'è sempre Luca Telese con noi. Morgan, buonasera. Buonasera. Come sta? Abbastanza bene, devo dire. Sì, oddio, stavo cadendo dalla sedia, quindi no. Allora, Dove si trova innanzitutto? Mi trovo a casa, stavo un po' su internet a vagare su internet. Senta, ma è vero che vuole fare causa alla RAI? Pure lei si mette in coda tra quelli che fanno causa alla RAI? È pieno di gente che fa causa alla RAI. Secondo me è inutile, tanto come fare causa a nessuno. Come a nessuno? La RAI? Nessuno? No, la RAI di questi tempi è una RAI abbastanza vuota, devo dire. Ma non è più la RAI di un tempo dove fare causa era anche divertente, no? Perché, perché quando combatti contro i mulini a vento non è che ci ricavi molto. Ma lei lo dice ancora perché è scottato da quello che è successo a Sanremo e tutto? Io non è che sono scottato, è stata fatta una cosa ingiusta, è un comportamento indegno da parte di questi direttori, e allora io volevo dirlo così, insomma, far capire il mio dissenso e la mia indignazione. Loro sono apparentemente, diciamo così, scossi e indignati dalle mie dichiarazioni, che peraltro erano, diciamo, a livello di dibattito, e se vogliamo vederle in termini personali erano quasi un grido così di aiuto, no? Loro invece, che fanno cose ben peggiori di nascosto, però dopo di siti internet sono pieni di sputtanamenti, di gente che dice l'ho visto fare questo, ecco loro, ma perché non dicono una volta tanto la verità alla moglie, ai figli, a tutti? E invece no, sono persone false che si aggancano, non hanno nemmeno l'onestà di stare zitti, no? E invece vengono a rimuovermi dal mio posto di lavoro, che ho un contratto regolare, questo sto dicendo, no? Sì. A livello proprio costituzionale è una porcata, perché non puoi togliere il lavoro a una persona che sta lavorando, tra l'altro anche bene, perché se andassero a guardare quello che facevo, forse secondo me non lo sanno neanche, non lavoravo male a detta di molti, ecco, sinceramente. Ma lei parla del suo lavoro a X Factor? Sì, parlo di un contratto triennale che ho firmato per co-condurre la trasmissione X Factor insieme ad altri. Senta, ma quando lei parla di direttori che si comportano in un certo modo all'esterno e poi nella vita privata fanno qualsiasi cosa, a chi si riferisce? Io non le so, perché io quegli ambienti là non li frequento, quindi io non posso dire di nessuno che ho visto che fanno determinate cose o che frequentano certi bordelli. Io non lo so, però leggo molti, come dire, articoli anche di giornali o di siti piuttosto accreditati, che appunto continuano a dire che ci sono fotografie o che ci sono. Comunque è un mondo che veramente non mi interessa, ecco, questo voglio proprio. Però lei lo sa che non è che si possono dire delle cose delle persone così consultando i siti, perché altrimenti è troppo facile, no? Cioè dice, i siti non dicono si che. Dimmi Telese, che c'è? Ma come si fa a non essere d'accordo con Morgan? Gente come noi, dico, gente che ha la minima idea. No, guarda, io Morgan, scusami Luca, io Morgan, quando c'è stato il fatto della RAI, l'ho difeso a spada tratta. Una vergogna, perché sono tutti strafatti di coca questi. Ma chi? Di chi parli? Non si può dire uno strafatto di coca senza avere le prove. Lo Star System, e rompono le scatole a lui per un'intervista. Ma io che ho detto, tra l'altro, una cosa, perché il punto, secondo me, se uno vuole proprio entrare, diciamo, nel vivo della mia polemica, io ho detto che a me non interessa dal punto di vista dello sballo, perché quando ho avuto a che fare con quelle sostanze l'ho fatto per dei motivi diversi, e quindi che esistono approcci diversi. Sì, ora, quello che ho detto io non mi sembra una cosa geniale, cioè è normale. Però scusami, adesso il punto non torniamo su quella cosa. Punto è che una persona che dice qualcosa che loro decidono che è sconveniente e non c'entra nulla con il lavoro che fa, perché lui non fa il divulgatore educativo, non fa l'assistente sociale, non cura i bambini, lui fa un programma, e loro dicono questa persona è sporcata da questa dichiarazione e non può più apparire nella RAI o in nessun canale privato, pubblico, non lo so. A me sembra veramente la lettera scarlatta, è una cosa vergognosa che dà l'idea. Però io ringrazio di questa solidarietà, perché appunto, voglio dire, cioè quando si è persone, come dire, guidate anche un po' da dal buon senso intimo di una vita che non è fatta di bella faccia, però poi no, cattivo comportamento, di anche, cioè, che se si sbaglia è giusto ammetterlo. Io vedo tanta brava gente che quando sbaglia lo ammette, anzi più lo ammettono più poi diventano bravi, perché sai Socrate cosa diceva, questo grande insegnamento, no? Che, però scusami, non, Morgan, scusami però, un attimo, al di là di queste cose io volevo dire, scusami, una, sì, che volevi dire? Non sono dimenticato, no, volevo dire che però scusami una cosa, allora adesso ti faccio ricordare quello che volevi dire, però sì, infatti, il punto è un altro, io sulla tua esclusione da Sanremo, no, ecco, scusami, ecco, non è quello il motivo, è il pretesto, l'intervista è il pretesto, perché la verità sei un po' complottista, è che io non su questo per altri motivi a queste persone, e sono motivazioni politiche, io non sono dalla loro parte. Ma fino a quel momento lavoravi, fino a quel momento lavoravi, non è così, dai, questa è una cosa di complottista. No, perché guarda che l'invasione da parte del Grande Fratello in Rai non è da tanto tempo. Che significa l'invasione del Grande Fratello in Rai? Grande Fratello nel senso di Orwell, non di Canale 5. Appunto, di questa entità nera, grigio nera, che non si sa neanche chi sia, di scaricabarili, che però vogliono essere, come dire, molto appunto censori, ad esempio, si vedano questi. Cioè, mi stai dicendo che ti ha fatto fuori Berlusconi da X Factor? Ma lo stai dicendo tu? No, è una domanda. Che chi sarebbe questa entità nera? Cioè, uomini mandati da Berlusconi, chi sarebbe? Sarebbe un modo di pensare che è sicuramente parte, cioè che è sicuramente un modo di pensare degli ultimi anni, che ha portato anche certi partiti non partiti a diventare di governo, certi, come dire, uomini neanche con una minima cultura di base, tale per cui possono sedere su quelle sedie, perché un minimo si richiede, e quindi io dico, è un modo di pensare che non si chiama Berlusconi, si chiama società moderna capitalistica di merda, si chiama sbagliato, come dire, vivere l'attualità in modo. Ma tu sei immerso nella società capitalista, scusa, no, però Morgan, modo, il brutto modo di vivere una società che purtroppo ha soltanto la linea capitalistica sfrenata, e quindi c'è chi la prende con un senso critico e cerca di essere ancora un individuo che sa discernere, e c'è chi invece si butta completamente in nuovo neofascismo stranissimo, che io non so neanche come definire. Vabbè, adesso so, secondo me questa tua scusami un attimo, scusa un secondo, no, ma non è questione di essere preparati o no, è questione che fino a un certo punto ti seguo, quando mi parli di complotti, di un'entità, eccetera, l'uomo nero, la RAI. Allora, cosa vogliamo dire? Cioè, io adesso dico delle cose e poi mi vengono veramente a prendere i gendarmi, no? Per cui non mi fa dire. No, ma che significa? Però bisogna essere anche più chiari, non parlare di capitalismo. Un attimo solo, sentiamo. Io ne parlo in termini, non lo so, chiamiamola media macchina rovinata. È una cosa un po' complessa. Che è molto complessa, sì. Ecco, farlo giustamente così con una. Però voglio capire, chi è il tuo nemico alla RAI? Chi è il tuo nemico alla RAI? Io vorrei capire, i nemici di Morgan alla RAI, chi sono? Non ti dico chi è il mio nemico alla RAI, però ti posso dire che comunque, per far capire che io anche sono una persona che ama il dialogo, e ad esempio io ti dico chi è un mio amico. E chi è? È Antonio Marano. Antonio Marano è il vice direttore della RAI, una persona che appartiene al gruppo della Lega, sì, politicamente, ed è molto amico di Berlusconi, ma questo non significa che io non possa. E invece un nemico chi è? Non li conosco. Ma il principale nemico, il tuo principale avversario alla RAI, chi è? È una persona che io non ho mai visto in faccia. Una persona che non hai visto in faccia? Che non la conosco. Non la conosci? No, ho visto solo delle grandi gigantografie, mi sembrava il re Umberto I, quello che l'anarchico Bresci poi ammazzò. Vabbè, ci sono i telegiornali, resta con noi, c'è anche Telese che ti vuole fare qualche domanda tra poco. E siamo qui alle 20:02, 800 24 00 24, sentiamo i titoli dei telegiornali di questa sera, TG5. Berlusconi, sulle intercettazioni mi sono astenuto, avrei voluto provvedimenti più incisivi, poi torna sui poteri del Premier, la sovranità è in mano ai PM. Ridurre la spesa e incentivare la crescita, Tremonti spiega la manovra, l'UE promuove l'Italia, Napolitano, strategia europea contro la crisi. A Parigi processo contro Jérôme Kerviel, provocò un buco da 5 miliardi di euro alla Société Générale. Voleva far credere al compagno che era loro figlio, confessa all'infermiera che ha rapito Luca, la mamma del piccolo, la perdono. Al TG5 la coppia che ha permesso di ritrovarlo. A un mese e mezzo dal disastro della Marea Nera, Barack Obama tuona, ora voglio sapere quale sedere devo prendere a calci. Protetti dal buio della notte, sfregiano a martellate i busti dei grandi, da Dante a Bramante, fino a Machiavelli, teppisti idioti nei parchi di Roma. Evitare la guerra a suon di gavettoni, tipica della fine dell'anno scolastico, si può. Come? Basta un annuncio a sorpresa. Va bene, niente di appassionante in questi titoli, sentiamo anche TG1. Intercettazioni, accordo nel PDL, Berlusconi, testo blindato anche alla Camera, sovranità non del popolo ma di alcuni PM. Sì della UE alla manovra dell'Italia, Tremonti, giusta ed efficace, il 19 giugno, manifestazione PD, torna a taglio mini province. Nocera, tra le braccia dei genitori il neonato rapito ieri da un'infermiera, ora in carcere, la mamma, la perdono. In Italia il premio RC Auto costa il doppio degli altri paesi europei, crescono evasione assicurativa e falsi bollini. Una macchina per prevenire il cancro, solo 15 minuti per individuare la malattia, Veronesi, svolta storica. Ultimi ritocchi al nuovo studio e la nuova grafica del TG1, rivoluzionata l'informazione online, tra due giorni il via. Com'era oggi Spinoza a Telese sulla questione del TG1? Sulla prima pagina? Spinoza? Prendi il tuo giornale. Visto. Prendi il tuo giornale! Ah, su... Il TG1 cambia veste e io canale. Non è male questo. Ma Stefano è scappato. Invece c'è Morgan. Qui voglio chiedere una cosa. Buongiorno. Santoro che fa il mobbizzato dalla Rai, è credibile o no? Sì. Santoro è sempre credibile comunque perché è un uomo che, insomma, io, almeno lo conosco abbastanza bene anche personalmente, a me ha sempre fatto una cioè mi piace, devo dire, Santoro, e credo a quello che dice, non ho motivo di non credergli. Cioè. Qualcuno scrive, è bello fare i mobbizzati con 600.000 euro l'anno. Ma che dice? Ma lui, ma perché non sanno che in realtà tutti quei soldi là sono appartengono a un contratto che Santoro ha firmato con la Rai, ma per produrre la trasmissione, cioè non sono soldi che lui prende come persona. Il suo compenso è quello. Sono soldi della produzione, che è un'altra cosa. No, il compenso è quello. È costato 35 milioni di dollari, già l'attore ha preso 35 milioni, è così atto la scenografia e tutto, no? Per cui sinceramente Santoro aveva un contratto di tanti soldi, ma non è che lui li prende, ecco. Ma guardi, non c'è niente di male a prendere tanti soldi. Ma no, ma non c'è niente di male, soprattutto se si è il numero uno in un certo campo, guarda i calciatori quanto prendono, guarda i piloti di automobilismo quanto prendono, nessuno si indigna quando un calciatore, che onestamente io posso essere anche d'accordo o meno, però ecco, sono più d'accordo che li prenda un uomo di cultura tanti soldi, perché ha studiato, si è fatto un culo, anche calciatore, devo dire, tutti quelli che sono bravi e sono eccellenti, è bello che prendano tanti soldi, poi bisogna vedere anche se fa delle belle canzoni prende tanti soldi, mi pare giusto, anche i calciatori, sì, è il mercato, no? È il mercato, è il supermercato. Dunque lei non sputi troppo sul capitalismo, sul mercato, ma chi eccetera. Sputa sul capitalismo? Io dico, c'è un modo intelligente di essere capitalisti, di essere, accettare la realtà, perché se uno potesse così, con i propri ideali, rappresentare ogni volta la realtà come vuole lui, potrebbe anche a volte non vederla sempre così capitalistica, nel senso di spietata, della concorrenza, una società che è guidata solo dal dio denaro, perché poi c'è modo e modo di vedere la modernità e di essere d'accordo con un mondo che progredisce, ed è da pazzi pensare che si debba tornare ai vecchi regimi o ai vecchi sistemi economici. È ovvio che si accettano quelli vigenti, però io vedo la modalità con cui ci si approccia e con cui anche si cerca di mettere dentro un po' di ideali e un po' di cultura, e invece queste cose si tirano fuori, si mette dentro solo sempre soldi, solo sempre profitto e basta. Senta, ma Bondi, che ne pensa lei di Bondi? Bondi, Don Abbondi, o è James Bond e Massimo Boldi, mi vengono tutte queste assonanze, io però mi occupo di parole. Però, mi scusi, a un certo punto ha resistito ai tagli. Ai tagli? Ai tagli alla cultura, i cosiddetti tagli alla cultura. No, stai provocando, dai, non difendere Bondi. Perché, scusa, perché non difendere Bondi? No, scusami. Questo citrullo, perché c'è la Dracula, capisci? Siamo rappresentati. Questo ha sbagliato, Eh beh, ma tutti poverini, senta, io non ho sentito quello prima di me, però chi è il signore tanto onesto e tanto gentile che sta parlando? Luca Telese, del Luca Fatto. Telese, ti saluto perché mi sembra che hai... scusami se ti ho interrotto, però volevo Ma lo so, no, lo so detto che quello che dovevo dire. Sì, sì. Però insomma, secondo me un po' di tagli alla cultura, nel senso, si spreca troppo, troppi enti, troppe cose. Dicendo, ma un po' di cose bisogna tagliare, ci sono un sacco di sprechi, sto parlando sprechi. Allora, sprechi. Sì, della cultura praticamente vengono dalle sigarette. No, ma diciamolo, scusami, pochi soldi che danno la scuola, taglio che hanno fatto oggi, di Stato. E invito, scusami Morgan, invito a leggere un bell'articolo che abbiamo fatto oggi sul Fatto. È una cosa incredibile. Ma cosa? Cioè, si taglia l'accompagnamento ai portatori di handicap fino al 75% e si porta questo limite all'85%. Allora il citrullo che ha fatto questo taglio non sa, sì, che tutti i down sono al 75%, quindi si è tolto con un tratto di penna per risparmiare, facciamo qualche taglio, hanno tolto l'accompagnamento. Adesso che c'entra questo con la cultura, scusa? Ma no, tu dici qualche taglio, tagliano così, non sanno di che parlano, veramente. Io pensavo, lo dico veramente, questa squadra di governo fosse meno citrulla, meno analfabeta, invece sono un po' analfabeti, un po' citrulli e un po' servili, nel senso che Tremonti, che è l'unico cervello acceso lì in mezzo, ora obbediscono senza neanche sapere che cosa fanno. La Gelmini vuole distruggere la scuola, poverino, ancora costa. No, un pensiero troppo complesso per lei, quindi lei prende e taglia. Questi che tagliano il servizio sociale agli handicappati vogliono ucciderli. Però no, al di là dei dettagli, al di là dei dettagli, io voglio dire, Luca, lo dico anche a Morgan, ma parliamo sempre di sprechi nello Stato. Da qualche parte bisognerà cominciare, perché quando ci comincia a toccare, allora cominciamo dai down. Utilizzano male i soldi. Un attimo, fai parlare Morgan. Telese. Non parlo di sprechi, io non la vedo così. Secondo me la questione degli sprechi è un'altra di quelle cose che ci mettono in bocca a noi popolo per dissentire, in modo che loro controllino pure il dissenso. Smettiamo di dire che si sprecano i soldi. Non si spreca. Ah, lo Stato non spreca i soldi in Italia. Lo Stato non spreca i soldi. Ma come non spreca i soldi? Mangia, che è diverso. Ma si buttano un sacco di soldi, vabbè, se li mangia li spreca, ma uguale. Per favore, cioè voglio dire, non io poi dopo ma dico, le false pensioni di invalidità ne hai mai sentito parlare? Delle false pensioni di invalidità ne hai mai sentito parlare? Sì, va bene, ci sono anche queste cose, ma cominciamo a pensare che in realtà bisognerebbe utilizzare in modo oculato invece quelli che utilizzano, cioè io quello sono d'accordo. Quando fanno finta di tagliare per esempio lo stipendio ai parlamentari o cose del genere, sono due bruscolini che loro dicono abbiamo tagliato per farsi belli e fare una cosa, ma no, non lo tagliano mai poi alla fine. Poi tagliano forse 2 euro dall'assegno mensile, però non è lì il punto. A me potrebbe andar bene anche che se 600 cristiani del Parlamento prendano quello che prendono, che è abbastanza buono come stipendio, però poi dopo se lavorano bene sei anche contento che vengano pagati bene. Comunque secondo me questi uomini che abbiamo oggi, come diceva Telese, non hanno un senso per me dello Stato, non ce l'hanno proprio, perché lo Stato è una cosa innanzitutto pubblica e loro invece sono sempre là a pensare al privato, a proprio filosoficamente parlando, cioè hanno in mente soltanto le questioni legate alla proprietà privata, al privato, no? Quindi invece bisognerebbe tornare a parlare di una faccenda pubblica, la res pubblica di tutti. Ho capito. Eccoci qui, ultimissima domanda a Morgan, che ringrazio della sua partecipazione alla Zanzara. Intanto ci ha raggiunto Alessandro Milan. Ciao Alessandro, buonasera. Ciao. Che mi sostituirà per qualche giorno, diciamo così. Diciamo così per qualche giorno e da domani alla guida della Zanzara. Allora, a Morgan però voglio chiedere, io mi sono fatto un'idea della sua vicenda, Morgan, che è questa, mi corregga se sbaglio. Correggimi se sbaglio, anzi ci davamo del tu prima. Correggimi se sbaglio. La mia idea è questa, che non c'è stato nessun complotto contro di te. Ma neanche per me c'è complotto. Eri lanciatissimo, apprezzato per quello che faceva X Factor, c'è stato un intoppo, un errore, un'intervista di troppo, certe cose quando si parla di televisione pubblica, io ero contrario alla tua esclusione da Sanremo, per carità, però insomma alcune cose tu che fai la televisione, che hai lavorato nel servizio pubblico dovresti conoscere, alcune cose non si possono dire. C'è stato un errore e quell'errore lo stai pagando probabilmente. Allora, io quelle cose là le avevo anche già dette, per cui è un fatto di distrazione di massa. E poi non è vero che non si possono dire, perché anche lì è modus in rebus. C'è chi, ad esempio, in altri tipi di società altrettanto giuste o sbagliate, come per esempio gli Stati Uniti, Lou Reed nel 74 ha detto cose ben peggiori, eppure non è stato eliminato C'è la RAI negli Stati Uniti. No, voglio dire, Lou Reed è una figura che ha preso anche delle lauree honoris causa, perché ha fatto evolvere la lingua americana non poco negli ultimi 30 anni. Insomma, non hai sbagliato. Con delle invenzioni. Io ho sbagliato a dirlo in Italia in questo momento. Ecco, okay, sì, ho sbagliato. Ho capito. A dirlo in Italia in questo momento c'è una pochezza e un'incapacità di ricominciare, diciamo, ecco, perché è stato annientato la capacità di dibattere, di argomentare. L'argomento non c'è più a favore del vuoto. E allora bisognerà a favore di anche TV show vuotissimi, dei quali io magari faccio pure parte, ma cerco nel piccolo di riempire un pochino, dove si non si insegna a scrivere la musica, ma si insegna ad accettare come dei piccoli signor sì il pezzo che ti viene imposto, ed è una cosa squallida, dove alla fine la casa discografica scrive fanno scrivere da qualche autore mediocre delle canzoni mediocri. E, ma di chi stai parlando? Dello stesso X Factor cui hai partecipato e che hai contribuito a realizzare? X Factor quest'anno ha mostrato il fianco parecchio in questo senso. Però adesso non ci sei stato, non puoi parlare male. No, ma io non ci sarei stato comunque, perché dopo 3 anni mi sento che basta, no? Basta, perché io, tu hai detto, abbiamo apprezzato tutti perché X Factor, a me sinceramente mi risulta che l'apprezzamento viene da prima, cioè il momento in cui io sono stato più apprezzato, di conseguenza ho fatto X Factor. Però io voglio tornare... Penso che mi abbia segnato un modo un po' strano. Ma non sto dicendo che solamente sei stato apprezzato solo per X Factor. Non fa parte veramente della mia cosa. Io ho fatto altre cose che ritengo che mi abbiano riempito di più e mi abbiano dato anche di più. Ma basta però con la causa. Pure tu, le cause alla Rai. A Morgan, me le cause che non piacciono. E allora che la fai a fare la causa? Ma io l'hai detto così, ma non la fai. Ho detto, però l'hanno messo nel titolo. Ecco, la differenza è che è stata una delle cose. Ho detto, ma io quasi gli faccio causa questi, no? Per dire, però, ecco, non è che ho detto a signore e signori, io farò causa anche perché di quel che faccio io. Non voglio che se ne parli in questo modo trombonesco, come dire, sentite che la prossima, la cazzata che ha detto. Ma... cioè, io sono una persona piuttosto, diciamo, loquace, che parla e esprime le sue opinioni in modo molto chiaro, quindi un'intervista può essere presa e manipolata e anche forse ingigantite delle parti e messe in minor risalto delle altre che invece io su cui alla radio sai che questo non può succedere perché no, uno dice infatti le cose. Come vedi qui non ho detto niente di mostruoso e quindi però se fosse stata un giornale probabilmente magari avrebbe parlato soltanto di quando ho detto la parola prostitute. Sì, dei siti. Ma chi è che va? Chi è secondo te quelli che sono i più ipocriti? C'è una persona che dice questo qua è il massimo dell'ipocrisia? Io non lo voglio, per cui ecco, io non farò nomi. Ne conosco parecchie di persone ipocrite, cioè non è che. Cioè che in privato si drogano magari o fanno uso di sostanze? Tutti chi? Tutti, anche tu probabilmente sei uno che beve il vino. Io ti assicuro, no, il vino tu che c'è. Tu bevi il vino forse, no? Guarda, nemmeno il vino, caschi nemmeno male il con vino. Me. Beh, allora sei uno dei pochi santi che abbiamo oggi, dove hai conservato. Con me caschi male. Traffico, torno un attimo, però resta ancora un po', Morgan, ti prego, resta. Siamo qui, Milan, cosa ti stimola Morgan? No, Alessandro. Cruciani Santo non si può sentire. Cruciani Santo? No. Come Berlusconi Vergine, Bezzani Massone, cioè cose che non si possono sentire. Però Morgan, ti assicuro che io nemmeno il vino, eh. Ogni tanto qualche birra. Vabbè, ma io non voglio fare la controapologia del vino, dico solo che tutto è drogante, è molto nocivo di quello che facciamo, però la cultura lo passa, no? Ad esempio, se io fossi un boliviano, no? Il fatto di fare la coca sarebbe probabilmente all'ordine del giorno. Se sei un veneto, di bevazzare vino bianco e rosso e anche grappa a palla, proprio, ma molto pesantemente, tale da essere la popolazione al 60% alcolizzati. Quindi, cioè, voglio dire. Però scusami, tu non puoi dire tutti si fanno in privato di cocaina nel mondo dello spettacolo. Non tutti si fanno di cocaina, sto dicendo tutti hanno delle gravi dipendenze, no? Perché la problematica qui non è tanto la sostanza di scelta, ma è il fatto. Ma anche di i famosi direttori di cui parlavi? Questo lo stai dicendo tu. No, è una domanda. E subirai le conseguenze. No, la domanda, è una domanda. Non ho visto il punto di domanda. No, mi vuoi fare querelare da qualcuno? Sai che non c'è negazione nell'incosciente, dice Freud, no? Quindi tu che ti chiedi, fai una domanda di questo tipo, vuol dire che è una cosa che hai nella mente. Ma no, ma è una cosa che che mi viene in mente dopo che hai detto quelle parole all'inizio. No, io non pensavo certo a Umberto Primo. No, Umberto Primo. Umberto Primo. Umberto Primo, altre cose. Altre cose. Ma chi è Umberto Primo? Umberto Primo, io sono di Monza, sono pieno di statue di Umberto Primo. Che non è che è stato ammazzato, mi risulta, dall'anarchico Bresci nel 1901, perché trattava male gli operai. Però nessuno ha voluto fare fuori Morgan dalla Rai. Si è fatto delle figlie di Chinotto si sono uccisi, beh, no, con 3 colpi di rivoltella, però i gendarmi avevano solo il Chinotto per bloccare l'anarchico delle bottigliette. Comunque insomma è una vicenda che è successa qui a Monza, ha segnato la città, perché l'anarchico Bresci veniva dall'America, si è fatto anche confezionare apposta, lui non viveva in Italia, però gli hanno detto i suoi amici che in quel momento gli operai erano trattati molto male, che la classe operaia non era rispettata e che erano successe delle cose anche di violenza gravissima, tipo il generale Bava Beccaris faceva cannonate sui popoli in rivolta, ok? E allora questo anarchico di testa sua si fa fare il sarto il vestito e arriva in Italia e viene a Monza la domenica, il re era in vacanza alla Villa Reale del Pier Marini gli spara 3 colpi di rivoltella alla visita domenicale. Ma adesso sei a Monza tu? Io sono vivo a Monza, io sì. Vivo? Beh sì. Io vivo a Monza perché io sono sei vivo a Monza. Dell'anarchico Pesce, quindi vengo qui a far però ho letto che tu hai detto Masi, Dio Freddi, Mazza, siete fuori legge, siete dei cowboy. Cowboy, che vuol dire? Cowboy, proprio nel senso vero del termine cowboy. Cioè che vivono in una società dove credono non ci sia la legge, cioè, e questo può essere visto anche, non so, come un complimento se uno però è giusto, e allora è l'anarchico a quel punto, l'anarchico, cioè anarchè. Però io voglio capire da te, uno che non vive le leggi, ma la legge è che un uomo ha un contratto, questa persona ha un contratto di lavoro con un ma si possono statale, risolvere i contratti si possono risolvere, lo sai bene, si possono risolvere i contratti. Non ho sentito quello che hai detto. Si possono risolvere i contratti anche, si possono i contratti anche... Si dice però che te li risolvono, si chiama, si manda una lettera, non si fa trovare il sostituto sul posto di lavoro senza dire nulla. Questo è illegale, perché neanche l'operaio o il... Vabbè, la causa la vuoi fare, ho capito, già sei partito con ma la causa. Ma non la voglio fare, io voglio fare una causa civile, a me non interessa civile. A un tribunale, io voglio che si sappia, punto. Che si sappia? Che si sa, ma questo si sa comunque, ci sono anche altri nella mia condizione, ci sono già passati, perché le idee producono questo tipo di problemi, ma il fatto è che io dico, la cosa assurda è che manco mi hanno avvertito, questo mi sembra veramente... Di X-Factor, non ti hanno avvertito che non avresti fatto X-Factor, manco ti hanno avvertito. Non mi hanno avvertito. Non ti hanno avvertito. Ho letto sui giornali che avevano assunto Elio, peraltro mio amico al quale faccio tantissimi auguri. Facciamo gli auguri. Non è proprio con lui, anzi mi divertirò tantissimo a vedere Elio al posto che in realtà dovrebbe aspettare a me, però mi fa molto ridere questa cosa, perché tu non fai il dipendente giocando, insomma sono degli adulti ma sono dei bambocci, no? Cioè, Milan, fai una domanda a Morgan. No, ma che ne so, stiamo parlando di Bava Beccaris, adesso passiamo, superiamo Bava Beccaris. Digli, ma insomma Morgan, ma qualche errore in questa vicenda? No, sì, ma qualche errore l'ha fatto, l'ha detto, no? Però sì, ha rotto un po' il velo dell'ipocrisia che c'è, però Morgan certe cose non si dicono, dai, ci sono state. Facciamo un po' di moralismo. No, è Alessandro Milan, è Alessandro Milan. Ci sono tanti giovani che ti ascoltano, ti guardano, pendono dalle tue labbra e tu dici certe cose. Quali cose? Sulla droga. Ah, sulla droga, dai. Ma dai, ma sai, ma guarda, lasciamo stare, veramente, perché anche lì ancora, io ho sbagliato, l'ho detto più volte, però per esempio farmi andare porta a porta per dire se ci vai, tu andrai a Sanremo, e sono andato, gli ho fatto fare il 30% di share, perché quei giorni lì sembrava che tutti volessero sentire la mia opinione. Ma non ti hanno forzato ad andare, non ti hanno forzato. Mi hanno trascinato a porta a porta, dicendomi delle falsità personalmente, e poi dopo... Niente, ma così si fa, dico, con le persone, ma il livello umano, ma dove è andato? Ma siete pazzi, siete. Ma che credete di avere a che fare? Chi è che ti ha consigliato di andare a porta a porta? Le persone come formiche sotto i piedi. No, ma chi è che ti ha consigliato di andare a porta a porta? Chi è che ti ha consigliato di andare a porta a porta, così saresti andato a Sanremo? Sono tutti messi d'accordo, ministri, conduttori, direttori artistici. Dai, che adesso esiste l'istituto del perdono. Questa è una grande presa per il culo, ma tutto andrà poi dopo, i nodi verranno al pettine, perché secondo me il karma esiste, io mo sto subendo le conseguenze probabilmente di comportamenti forse errati nella mia esistenza, legati a degli sbagli che ho fatto, e questo è sacrosanto, chi è causa del suo mal pianga se stesso, io sono causa del mio male, ma loro di male gliene arriverà il triplo probabilmente. Vabbè, con questo chiuderei, grazie. Sono io a darglielo. No. Grazie. Prego. Ciao. 20:27. Qualche ascoltatore, Alessandro, che dici? Vabbè. Qui abbiamo fatto il pieno di Morgan. No, il karma degli ascoltatori. Il karma degli ascoltatori. Vincenzo da Firenze, anzi no, chi c'era prima? No, nessuno. Vincenzo da Firenze, prego. Sì. Karma, come viene a Livorno, si vuole karma con l'F. No, karma quello è in romano forse. Anche a Roma. E karma che significa a Livorno? Calma. Ah, calma. Sì. Ha capito qualcosa dei discorsi di Morgan? Ma è uno sfogo legittimo in un momento di rabbia. È fortunato comunque che trova la possibilità di portare davanti a tante persone le sue legittime, credo, rimostrazioni. Beh, niente, le volevo dire, volevo esordire compreso in colinesso ma inciuso. Cioè? È quello che dice Celentano, cioè bisogna interpretarlo, non si può analizzarlo. È con tutti i suoi pregi e difetti un artista, e così va visto, punto. Ho capito, ma gli artisti quando scrivono su Repubblica si devono anche far capire però. Questo è vero. Altrimenti che scrivono a fare? Ma è... La libertà di stampa, il regime, lo squilibrio, maestà, il profitto, l'antiprofitto. Avete scritto. Sembrava Morgan. Un bell'articolo in cui comprensibile e quant'altro. Lei oggettivamente avrebbe pensato che l'aveva scritto lui, qualcuno gliel'aveva dettato. Anche questo è vero, Vincenzo. La disfida sulla massoneria. Fioroni. Fioroni, dirigente del Partito Democratico, dice fuori i massoni dal PD. Io ritengo che il Partito Democratico, che ha scelto di investire su alcuni valori fondamentali, quello della propria autonomia e della propria libertà, deve rispondere delle proprie scelte, dei propri progetti e dei propri programmi direttamente agli elettori e a propri iscritti e non ad altre associazioni che liberamente o con segretezza hanno idee e progetti che perseguono con altrettanta volontà e con altrettanta caparbietà. La risposta di Raffi del Grande Oriente d'Italia. Fioroni, di cosa sta parlando? Io ho sentito Fioroni, ma Fioroni di cosa parla? Evidentemente parla per sentito dire, perché non ne ha assolutamente un'idea. Falso problema, perché noi non andiamo a indagare per sapere se un fratello milita in un partito, perché non dobbiamo dirigere nessuno. La massoneria esprime non una voce unica della cultura, ma è pluralista, quindi abbiamo fratelli che votano a destra, votano a sinistra, votano al centro. E poi Livia Turco, l'opinione di Livia Turco su questo, PD. Ma non lo so, perché discutiamo di massoneria, io non sono molto... come dire, penso che sia bene che chi è iscritto al PD non sia iscritto alla massoneria, perché nella sua storia non è stata sempre una di quelle forme più limpide e trasparenti. Detto questo, non so molto della massoneria, ma mi sembra di dovermi fidare di chi dice che... Non sa molto sulla massoneria, ma si fida di chi gli dice che la massoneria era come la P2 di Licio Gelli. È sempre con noi Alessandro Milan, che da domani sarà qui sulla plancia di comando di questo caravanserraglio che è la Zanzara. 800 24 00 24. E una delle cose del giorno è questa storia di Tosi e dei 190. Ma è incredibile. Allora, dice: io sto là dietro seduto e la scorta può andare anche a 200 220 a 190, mi fido della scorta. Però, caro Alessandro, c'è un sacco di gente che ha chiamato e dice: beh, guardate che effettivamente poi la scorta può decidere autonomamente, non è così scandaloso. Lo stesso Telese prima ci ha detto: beh sì, ma insomma il problema è che ci sono troppe scorte, non la velocità a cui vanno le scorte. E speriamo di non incrociarla a 250. Esatto. Paolo da Milano. Stare molto dietro. Esatto, Paolo da Milano. Pronto? Dica. Buonasera. Buonasera. Scusi, ma stavo mangiando la bocca piena. Cosa sta mangiando? Un pezzo di cioccolato. Cioccolato a quest'ora? Beh, dopo cena. Dopo cena. Prima cosa ha mangiato? Adesso non glielo dico. Come non me lo dice? Paolo, con la bocca piena di cioccolato adesso non mi vuole dire cosa ha mangiato prima. Sorvoliamo. Sorvoliamo. È una cosa segreta, cos'è? No, è una cosa di cui mi vergogno. Come si vergogna? Si vergogna di quello che ha mangiato? Sì. Paolo! Paolo si vergogna perché ha mangiato tanto, non ho capito. No, ha mangiato male. Cioè male, ha mangiato una roba a McDonald's? No, per carità, con tutto rispetto per McDonald's. Ha mangiato male cosa? Hamburger? Vabbè, diciamo che si è avvicinato, va. Cioè cosa ha mangiato? Robaccia? Sì, sì, junk food. Ah, junk food. Si confessi, junk Paolo, si confessi. Cosa ha mangiato di così schifoso? Così le faccio prescrivere una dieta da Villari col sondino. Le faccio prendere il sondino per una settimana. Ma guardi, mi sono lanciato con un McRoyal Deluxe Menu. Ah, no, è andato da McDonald's. Sì, sì, sì. Beh, vabbè, ma insomma, adesso per carità. Comunque, Paolo, si merita 3 giorni di sondino alla Villari. Perfetto. Le regalo 3 giorni di sondino. Sa il sondino che si fa. Di cui parlava Morgan prima. Vabbè, adesso. mi dica, di che allora, mi vuole parlare? Niente, le volevo semplicemente dire una cosa. Io sono stato conduttore di auto veloci per un periodo. Per e allora? Porte a VIP, politici, sì, eccetera. Una doverosa premessa. Cioè lei che cos'è? Ha fatto le scorte come poliziotto? Sì, diciamo, come appartenente alle forze dell'ordine. Le forze dell'ordine. Cioè lei è un poliziotto, un carabiniere, non lo vuol dire? Sì, sì, sì. Lo è ancora? Lo è ancora? Certo. Ma è uno di quei allora, poliziotti panzoni di cui parlava Brunetta, no? No, anche se ho mangiato il Deluxe Menù, 1,80 m per 75 kg. Ah, vabbè, ci possiamo stare. Non ci vado spesso. No, il discorso è semplicemente questo. I conduttori di auto veloci, doverosa premessa, non sono scalmanati o gente da Fast and Furious. Spesso si viene obbligati, si subiscono pressioni, eccetera. Però una cosa che voglio semplicemente raccontare, un episodio che capitò a me. Non ero nell'auto, nella tutela, ma ero nell'auto con a bordo il VIP, in ritardissimo per arrivare all'aeroporto Linate, ministro. Sì. Il VIP, signor ministro, cosa facciamo? La risposta fu: prendo l'aereo successivo. Basta. Positivo questo? Positivo questo? Sì, assolutamente. Basta, era semplicemente questo per dire, per portare un episodio accaduto a me, che non bisogna più di tanto demonizzare il. Forse, come ha detto lei, ci sono troppe scorte. Senta, però voglio chiedere a lei, che mi sembra esperto del settore, non del settore cibo o junk food, ma del settore scorte. Ma è vero che si possono superare i limiti di velocità impunemente, tra virgolette, o no? Beh, il discorso che si superano i limiti di velocità impunemente. No, impunemente per dire, non è quello il discorso. Le scorte possono andare oltre i limiti di velocità sempre, le multe vengono automaticamente annullate, sì o no? Questo voglio capire. No, cioè ci sono comunque delle norme precise, norme legate alla sicurezza propria, altrui. Però uno può dichiarare, può sempre dichiarare, era per motivi di sicurezza che andavo a 190, basta un tratto di penna, basta una parola, basta nulla, o no? Sì, in linea di massima può essere così. Ma è così necessario andare a 190-200 in autostrada se non si è rincorsi da Bin Laden? Assolutamente, perché se il ministro, che è uno dei 20 o il sindaco, dice prendo l'aereo dopo, successivo, penso proprio che cioè è inutile che un cioè secondo lei o c'è un motivo veramente importante oppure andare a 190-200 sull'autostrada no, è inutile. È rischioso. Beh, mi sembra una parola molto chiara, no Alessandro? Chiarissima, voglio dire. Ma no, io l'ho sentito Tosi, Ma questa cosa che lui sta dietro, tanto quello va avanti a 220, tanto è bravo, no? Questo mi ha stupito. È abilitato, io se uno va a 220 sarà anche bravo, però se non è... Tremo un pozzo. Abbastanza. Però ci sono delle macchine, è vero, anche le Audi, così, sì, che possono... Non si sentono i 190 e i 200. Di media 190 di media significa che si può andare anche tra i 180 e i 220 in alcuni punti. Francesco? Oggi non mi hai detto niente dello yacht di Briatore. Ma che è successo? Là, che i 250.000 euro al giorno di mantenimento? Là. Chi li paga? Ma questo non è vero, io non ci credo che lo Stato per lo mantenere... Stato, ma come no, non ci credo? Non ci credo, non ci voglio credere. Non ci voglio pagando lo yacht di Briatore. Non ci voglio credere, questa cosa qua non ci voglio credere. Ma è vero! Allora ridiamola a Briatore. A questo punto è meglio ridarlo a Briatore. Se dobbiamo pagare 250... Per pagarlo sì. Certo, se dobbiamo pagare 250.000 euro al giorno, ma io non ci credo a questa cosa, no, non è vera, non è possibile. Ma che lo stiamo pagando noi per forza. Sì, che lo stiamo pagando, il fatto che stia fermo, eccetera, ma 250.000 euro al giorno, come ho letto, non credo. Beh, è un bello yacht però. Sì, d'accordo, ma insomma, a questa cifra non credo. Francesco da Messina. Sì, buonasera. Dica. Niente, ma mi sono il collega di prima, praticamente, sullo stesso argomento. Perché lei è un agente di polizia? Sì, sì, sono un agente. Come sono contento tutti questi poliziotti che ci chiamano, non è ironico, Francesco, è vero? No, no, assolutamente. Spero di non essere beccato da qualche superiore per questa mia critica. Vabbè, ma è Francesco da Messina, mica è Francesco... Sì, sì, sì, vabbè. Lei dice l'accento... Abbiamo fatto sto lavoro, sappiamo come si fa... E Tosi, secondo lei, che cosa ha detto? Delle cose vere o false? Si è arrampicato sugli specchi, è stato beccato in castagna, quindi ha dovuto dire... Io immagino sto povero sindaco messo dietro, o seduto dietro, ostaggio di questo scalmanato al volante, e presumo, tra l'altro non sia neanche un collega, perché... Se ho capito bene, è una macchina pesarnolo, quindi... Sì, tra l'altro un ascoltatore prima ci ha detto... Sarà un vigile urbano, sicuramente. No, un ascoltatore prima ha detto addirittura un militante della Lega, una cosa del genere. Un signore da Verona che ci ha chiamato dicendo in realtà l'autista di Tosi non è un poliziotto, quello della scorta, ma è un dipendente... Su questo non mi posso pronunciare perché non sono lì presente. Mm. La scorta può essere fatta anche da personale della polizia municipale spesso, I sindaci qui della zona nostra, siciliana, si avvalgono spesso. Vabbè, ma che cosa mi deve dire lei su Tosi? Dietro, terrorizzato, in mano a sto pazzo che cammina a 200 all'ora perché per il suo divertimento, per la sua ipotesi di sicurezza. Quindi sono delle sciocchezze che si dicono per cercare di saltare la faccia. Sappiamo benissimo che io a 200 all'ora ci sono andato una volta sola, forse in vita mia, e avevo un cuore da... Ma lei ha fatto le scorte, guidava le macchine? La linea è caduta. Francesco, qualcuno ci interrompe. Qualcuno ci interrompe, sentiamo male. Io ho il telefono purtroppo in attesa, si starà scaricando, che sono un bel po' in attesa. Senta Francesco, io non ho capito, lei ha guidato le macchine come scorta di qualche politico, di qualcuno o no? Certo, io ho fatto sia le volanti che... A 200 all'ora ci andava? Come? A 200 all'ora ci andava, sì o no? Sì, ci sono andato una volta sola in vita mia e avevo un cuore da trapiantare, dovevo portare l'equipe in aeroporto di corsa e stavamo tutti belli spaventati perché era una vecchia Alfa 33. Vabbè, si sente male. Adesso ci ricolleghiamo con Francesco. 20:47, c'è Barisoni che è entrato un attimo, lo cacciamo. Via! 20:47, 800 24 00 24. Eravamo con il poliziotto da Messina che ci parlava di Tosi, la linea è caduta, lo richiamiamo. Marino da Rimini. Buonasera, signor Cruzzani. Buonasera, dica. Posso salutare Telese? Telese è andato via, mi dispiace. Vabbè, lo saluto comunque. Lo saluto io per interposta persona. Grazie. Prego. No, io volevo parlare dello smantellamento della cultura. Lo smantellamento della cultura. Sì, è una cosa che fa paura al potere, alla destra in particolare, sa? Quando uno ha imparato una cosa e se l'è messa nel cervello, è l'unica cosa che non riescono a fregarti, i soldi, il potere, te lo possono fregare sempre. Quello no, se hai un minimo di intelligenza ragioni con la tua e quella non te la riescono... Ti possono mettere magari in carcere, però quello non te però, lo fanno. Sa, Marino, poi magari capita che la gente non conosce Miracolo a Milano o La Dolce Vita, ma quelle sono cose particolari. Però Marino, sa una cosa? Io quando sento parlare genericamente di tagli alla cultura, o anche quando sento parlare genericamente di cultura, per carità, poi i tagli indiscriminati sono sbagliati, bisognerebbe chiudere solamente gli enti che effettivamente producono poco dal punto di vista scientifico. Siamo tutti d'accordo che spesso Tremonti utilizza un po' l'accetta, no, spara... No, ma non è colpa di Tremonti. E di chi allora? Ma lo Stato in generale. Sì, ma, capito, ma per lei che significa, che significa cultura? Io che piace molto a lei. Come? Il nostro presidente del Consiglio che piace molto a lei. Ma veramente a me non piace troppo Berlusconi. Diciamo, ognuno ha il suo giudizio naturalmente. Ma lei pensa che a me piace Berlusconi? Ha detto che ha la faccia molto simpatica. Ma secondo lei ha la voce sensuale? Berlusconi ha la voce sensuale? Più che altro la voce sensuale lasciamo perdere, a me non me ne frega niente. Ma la faccia magari se l'è rifatta, per quello che forse è diventata simpatica. Vabbè, che c'entra adesso? Le facce rifatte non sono mai poi simpaticissime in realtà. Non lo so, ma dipende da lui. E poi non credo che si sia fatto... Io me lo ricordo quando a Rimini faceva lo showman in Piazza Tripoli. Tanti anni fa, Marino, no? Ah, ma io sono vecchio, sa. Ma viva la vecchiaia! Quello che mi preoccupa, la cultura per i nostri figli, io infatti a mia figlia gliel'ho sempre detto, è l'unica cosa che non ti può mai fregare nessuno. Ma basta che si iscriva alle facoltà scientifiche, a posto. Non è solo, cioè, non è un, anzi, mia figlia ha fatto archeologia, si figuri. Vabbè, Marino, la ringrazio molto, qui abbiamo diversi ascoltatori, ma apprezziamo molto questi interventi con un bel accento romagnolo. Dov'è? Oscar da Napoli, buonasera. Buonasera. Dica. Io sarò forse l'unica voce del coro contrario, ma io il sindaco di Verona lo difendo. Addirittura, come mai? Ma perché innanzitutto presumo che potesse avere dei buoni motivi per andare a 190 all'ora, ma soprattutto perché... Guardi Oscar, secondo me, tranne il caso in cui si è inseguiti da una macchina... di Bin Laden o di terroristi conclamati, andare a 190, 200, 220. In quel caso ti arriva un razzo e non ti bastano manco 100. Vabbè, adesso sto scherzando, naturalmente. Certo. Però, insomma, mi dica un motivo per cui uno dovrebbe andare a 200 all'ora in autostrada. Francamente non lo capisco. Francamente la mia è una provocazione, perché ritengo che a 130 all'ora è molto più pericoloso guidare una Panda in autostrada piuttosto che una macchina guidata da, mi auguro, un professionista. Ho capito, ma ci sono dei limiti di velocità, però, Oscar, altrimenti diciamo che le Audi e quella di Tosi può andare a 190-200 e via. E siccome non è così, uno si dovrebbe adeguare ai limiti di velocità, o comunque, certo, insomma, superarli di 10, di 20. Così 190 significa 200-220 in autostrada. Non lo posso so, farle una domanda, Cruciani? Sì. Lei non è mai andato a 180 all'ora? No, non sono mai andato a 180. Cioè, io ho sentito il poliziotto di prima che diceva che gli arrivava il cuore in gola a 200 all'ora. Probabilmente con un'Alfa 33, probabilmente è pure possibile. Le assicuro che ci sono auto. Sì, uno non se ne accorge, Non se ne accorge nemmeno. E la sicurezza è talmente tanta di più di un'utilitaria che va a 130 all'ora, che francamente non si capiscono questi limiti di velocità uguali per tutti. Sì, ho capito, c'è però una differenza, Oscar, si tratta di un'istituzione, si tratta di un sindaco, certo. Ora, per carità, io non voglio sminuire i problemi di sicurezza che ha Tosi, un sindaco sarà stato minacciato, è giusto che abbia la scorta, non lo so, non voglio sindacare su questo, ma ripeto, trovo piuttosto complicato, a meno che non si sia in ritardo in qualche appuntamento. È anche un'altra, che di macchine con... le lucine blu che sfrecciano a... Ce ne sono tantissime, certo, ce ne sono tantissime. Si può dire che non va bene o no? Secondo lei invece, secondo lei è demagogia? Sì, probabilmente sì. Ho capito. Però vanno valutate le condizioni. Milan è andato mai a 200 all'ora, no? No, io no. Ma questa era la media. La media a 190 vuol dire avrà rallentato a 160 ogni tanto. Vuol dire che avrà... sarà andato a 220 anche, non lo so. Però l'ascoltatore dice vabbè, con certe macchine è normale, non è una cosa scandalosa. Capito, è normale, ma che vuol dire normale? Sempre se non incroci una Panda che va a 130 a fianco. E poi è scritto dappertutto, l'abbiamo detto prima, che andare a 190 è pericoloso, a 200 può essere pericoloso per gli altri, altrimenti certi limiti non esisterebbero. Sempre ma comunque, da Napoli. Giuseppe, io non ho capito, cioè, qua Berlusconi dice che sparano alla protezione civile, Celentano che finisce il mondo, Morgan c'ha il karma, tu te ne vai. Non ho capito, in che modo è? Io me ne vado e c'è Alessandro Milan in conduzione qui da domani a... non si sa. Mauro... Mi raccomando, non ti spaventare troppo con gli ascoltatori che sono cattivissimi. Mauro, no, sentiamo se è cattivo Mauro. Pronto? Tanto è abituato, Finalmente. Milan è abituato agli ascoltatori, per cui... Ah no, vabbè, lo sento, l'ascolto anche la mattina. Quindi... Meno male. Ah, a proposito della mattina, c'è una notizia sul programma di domattina, Bianco e Nero. La Gelmini che dice è sbagliato essere bocciati con un 5. Sei fortunato, Alessandro. Hai visto. Eccolo. Siamo qua, sul pezzo. Gelmini, con un 5 non si boccia nessuno. Ma alla mia... veramente, quando andavo io a scuola, con un 5 si veniva bocciati, e come? Con uno, ma dai. No, con un 5 no, con un 5 solo no. Però non so se si riferisse a un 5 solo oppure a, in generale, ai 5. Vabbè, vedremo. Mauro, dica. Senta, allora, no, giusto così, mi lascio un po' al sindaco Tosi, là. A parte il fatto che, vabbè, può essere anche brava la scorta e può avere anche l'aeroplano, però non è che in autostrada sta solo lui, insomma, voglio dire, il pericolo proviene anche dagli altri. Detto questo, volevo dire Dunque, su Santoro, lei come la pensa, dottor Cruciani? Che significa? No, io non ho capito niente, resta, alla fine resta, mi sembra tutta una sceneggiata, no, però. Ma le sarebbe dispiaciuto se poteva essere normale un cambiamento? Insomma. No, guardi, Mauro, io sono abituato a ragionare in questo modo, nessuno, non mi sembra un problema che riguarda la democrazia. La RAI è gestita dai partiti, i partiti condizionano il management della RAI, che può commettere errori dal punto di vista degli ascolti eccetera, ma finché la situazione è questa è inutile lamentarsi. Santoro sa benissimo la situazione. Dopodiché a me Anno Zero piace, il conduttore è un bravissimo conduttore, noi prendiamo moltissimi spunti da Anno Zero, ma insomma se non ci sarà Anno Zero non mi sembra che sarà un vulnus per la democrazia. Questo è il mio parere. Alessandro, ti lascio a queste belve, gli ascoltatori della Zanzara. Ciao, grazie, ciao. Grazie. A domani 18:30 con Alessandro Mina alla Zanzara. Noi ci risentiamo tra qualche giorno, qualche settimana, non lo so. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non mi preoccupare.